Opinioni Libera presenta Lucciole nelle Tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle Tenebre, bentornati dopo una vacanza di Natale. Ciao a tutti, sono Eleonora. E io sono Stefano. Siamo di nuovo in una formazione tecnici radio, per carenza di personale, cause vergogna, esami. Vergogna, secchioni, non si studia. Infatti noi siamo qua, Stefano si deve anche laureare, ma lui è chi qui. Chi se ne frega. Infatti si laureerà sicuramente, benissimo. Infatti. E con ottimi voti. Va bene, Stefano, adesso noi siamo tornati dalle vacanze di Natale dopo aver mangiato tanto. Questo 2015 è iniziato proprio bene, oserei dire. Sì, è un anno che già ha delle premesse ottime. È partito col botto, è una battuta pessima. No, però ci serve per introdurre l'argomento fondamentalmente. Allora, di che argomento parliamo oggi? Visto ovviamente quello che è successo, che penso ormai sappiamo tutti, chi in modo più accurato, chi in modo un po' più portato avanti dal social dal post sul social network e dal mi piace, ma non stiamo a fare distinzioni in questo caso, sappiamo della strage di Parigi e non vogliamo parlare in questo momento soltanto della strage, perché penso che altre voci più acculturate, più competenti delle nostre ne abbiano discusso. Vorremmo parlare delle nostre impressioni, perché fondamentalmente si sono cominciati a uscire degli slogan, cioè, sui Charlie per la libertà della satira, destra e manca. Però noi vorremmo ricordare che qui in Italia ci sono stati degli atteggiamenti molto ambigui nei confronti della satira nel corso degli ultimi 20 anni, degli ultimi anche 15 in realtà, perché fondamentalmente ci sono stati dei peggioramenti dal punto di vista di libertà di stampa e di parola. Cominciamo con un dato preso direttamente dal rapporto Freedom House, che stila fondamentalmente ogni anno il grado di libertà di stampa all'interno di ogni singolo paese, e arriviamo all'Italia. Dai, saremo messi decentemente? Dati dai, 2012. Siamo in Europa, Unione Europea. Dati del 2012, di 3 anni fa, l'Italia in Europa occidentale è al 24esimo posto con un punteggio di 33. Il punteggio va a salire, cioè nel senso, in prima posizione c'è il punteggio più basso e l'ultima posizione c'è il punteggio più alto, ed è considerata come semilibera. E siamo praticamente sopra solamente la Turchia in Europa. Beh, semilibero non è comunque in carcere, insomma, no? Cioè, sì, buono. Non siamo una dittatura, ma siamo quasi una dittatura dal punto di vista del... No, dai, insomma, non esageriamo, semiliberi, insomma, vuol dire che si dicono le cose come andrebbero dette. No, come andrebbero dette, sì, Stefano, insomma, non è dette. Che adesso tutte le persone devono dire la loro opinione su qualsiasi cosa, non è che siamo tutti competenti, ogni tanto qualcuno va zittito. No, non siamo tutti competenti, ma... da un certo punto di vista non si tratta solo di una questione di competenza, questo si tratta anche di, appunto, di libertà di fare satira, perché dal 2001 circa, dopo grandi trasmissioni come Avanzi l'ottavo nano, gestite dalla Serena Dandini con un sacco di persone di alto livello di comicità satirica e non, c'è stata un cambiamento a causa di arrivi strani nel presidenza di consiglio, ma non voglio fare nomi. Strani? Dai, insomma, non, sì. Una persona che abbiamo visto per poco tempo. Poco, dal 94 ad adesso più o meno. Però insomma, solo la nostra vita, diciamo, cioè, senso, perché è poco rilevante comunque. Cosa potrà mai cambiare in un paese in questo periodo di tempo? Beh, lo staremo a vedere dopo la canzone. E vi lasciamo al momento con Shake the Room dei Funk Hunters. A tra poco. Bring back that feeling. Yeah, you know the one I'm talking about. That feeling that's been gone for way too long. Gotta bring back that feeling. You know the one I'm talking about. All right now. Yeah. sign up, let me hear you say yeah. Power to the people, put your hands in the air. Peace sign high like I really do care. Fingers in the air like you really give a damn. Peace sign up, let me hear you say yeah. Power to the people, put your hands in the air. Peace sign high like you really do care. Dance with the vibes, get loose. I hit the floor directly to the roof. Ooh, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets moved. Bentornati in studio e adesso continuiamo con la nostro programma e vorremmo appunto, come abbiamo detto, fare una carrellata delle trasmissioni chiuse dal 2001 ad oggi in Italia, nel paese semilibero per Italia, la libertà di stampa, questo paese fantastico in cui viviamo. Allora, cominciamo. Il primo a essere stato sospeso come personaggio delle trasmissioni satiriche è stato Daniele Luttazzi. Daniele Luttazzi con Satiricon nel 2001. Abbiamo poi, non solamente per la satira, però in generale, il cosiddetto editto bulgaro, che immagino non faccia piacere chiamare così per una certa parte della politica italiana, comunque l'eliminazione dalla rete pubblica, dalla RAI, di tre giornalisti particolarmente invisi perché erano chiaramente individui pericolosi, quindi Enzo Biagi, Daniele Luttazzi e Santoro, che si sono poi spostati. Adesso Santoro comunque lo troviamo da altre parti. Detto ciò, sono stati ritenuti inadatti alla televisione pubblica. Sì, inadatti, forse dicevano troppe verità, forse facevano parlare persone scomode. E successivamente nel 2003, sempre per questo editto bulgaro, è stato chiuso Riot di Sabina Guzzanti, scritto con curze maltese, che andava in onda, attenzione attenzione, alle 23:15 su Rai 3. E un orario cui... fascia protetta, mio Dio. Beh, tutti i bambini che, cioè, nel senso, stai a te che ora andavi a letto, scusami, da bambino, eri sfigato. Alle 2 di notte. Voglio dire, come tutti, te lo guardi il programma e non è adatto ai bambini. È stato fondamentalmente chiuso perché aveva fatto un'imitazione della Lucia Annunziata. C'è stata una rimozione temporanea che è durata per sempre alla fine. Per un po', diciamo, sì, fino ad oggi, però potrebbe anche riaprire, non lo sappiamo. Sì, anche perché la causa della querela fu vinta nel 2004 da Sabina Guzzanti, ma al momento non ha riaperto. La Sabina Guzzanti ha fatto un'altra serie di cose, alcuni film anche discutibili, però non ha mai ripreso fondamentalmente una carriera di satira che aveva avuto fino al 2001, con anche delle grandissime interpretazioni. E poi? E poi c'è un grande ritorno di Daniele Luttazzi, che viene cacciato di nuovo. Voglio dire, ci riprovi, cerchi di ingannare dalla 7, la gente, particolarmente. Dalla 7 nel 2007, l'8 dicembre 2007, perché aveva messo su questa enciclica di Benedetto XVI in cui c'era anche una battuta su Giuliano Ferrara, che fondamentalmente era ritenuta offensiva e quindi hanno chiuso. Allora, dopo questa serie scarrellata di chiusure che ci sono state nel giro di poco tempo, e per fortuna adesso non ce ne sono, bisogna fare una precisazione. La satira non è detto che debba far necessariamente ridere tutti e che debba essere buonista. No, la satira, in quanto satira, deve essere, secondo me, mia personalissima opinione, una cosa che mette a nudo delle cose ridicole delle altre persone o degli avvenimenti che stanno accadendo. E non è necessariamente che debba far ridere o che debba essere di buon gusto, no. Può essere anche di cattivo gusto, per la mia modesta opinione, perché comunque sia è un atto di libertà, contro un potere fondamentalmente. E diciamoci la verità, tra le persone che si sono sollevate anche in Italia a difendere Charlie Hebdo, a dire siamo tutti Charlie Hebdo, troviamo anche certi luminari, certi soggetti, tra cui penso spicchi in particolar modo Daniela Santanchè, che mi colpisce in modo particolare in questo suo intervento. Si sono addirittura in questo caso offerti di pubblicare in Italia Charlie Hebdo, che a una lettura attenta, penso che se qualcuno ha visto effettivamente le vignette pubblicate, io non ci capisco niente perché sono in francese, mi basta guardarle però per capire che a qualche cattolico ben pensante potrebbero comunque non fare piacere. Charlie Hebdo è una rivista, per gli ascoltatori, di sinistra, cioè è una di satira di sinistra. Fondamentalmente sì, in Italia è stata difesa molto dalla destra anche estremista, che è venuta fuori tutta in un momento contro gli islamici. Ora, agli islamici chiaramente prendeva in giro, ma non prendeva in giro l'islamico. Prendeva in giro tutti, perché era libera di poter prendere in giro tutti. Prendeva in giro tutte le fedi. E secondo me, a me pare una grandissima ipocrisia da una parte difendere questi qua perché sono stati colpiti, ma in maniera brutale. Dall'altra parte però fatevi un esame di coscienza, almeno se da questo giorno, se da oggi voi vi dite difensori della satira, lasciate fare la satira alle persone anche in Italia, perché forse, e dico forse, la satira è davvero una delle più grandi forme di democrazia che abbiamo. E adesso, dopo questi discorsi, vi lasciamo con una canzone degli Animal Collective, My Girls, che invisa Stefano in quanto troppo hipster. Thank you. I'm Bentornati in studio. Adesso passiamo a Buffier. E oggi di Buffier non svilupperemo delle discussioni su temi particolari, no. Vogliamo semplicemente sponsorizzare una rivista, sempre parlando di satira. Facciamo il Buffier a tema oggi. Sì, Buffier a tema. E vi parliamo del male. Cos'è il male? Il male è praticamente stata una delle più grandi riviste satiriche italiane, che ha pubblicato dal settembre del 77 fino al 1982, ed è stata probabilmente una degli esempi più fulgidi della satira italiana, perché ha avuto un sacco di autori che fanno ancora adesso della satira, come Vincino, Vauro, Pino Zac, Pasquini. E ha avuto anche delle persone di un certo calibro anche artistico, per esempio Andrea Pazienza. Il male ha avuto anche, dopo la chiusura, in pratica ci sono state delle epigoni del male. Nel 94, con l'ascesa in campo del solito personaggio, Vincino riunisce tutti i vecchi redattori e fa un numero speciale. Oppure, per esempio, dal 7 ottobre 2011... fino al 2012 giù di lì, ogni settimana il male di Vauro e Vincino usciva. Io per esempio li ho tutte, ovviamente, perché bravissimo, colleziona le tutte. Erano cose bellissime in realtà. E niente, e il male era appunto era praticamente uno Charlie Hebdo all'italiana, sostanzialmente. Diciamo che è l'espressione di un periodo in cui gli italiani erano più spiritosi. Magari adesso non facciamo più ridere, non siamo più simpatici. Era un periodo in cui gli italiani, forse nonostante ci fossero dei grandi problemi, perché nel 77 vi ricordo incomincia le strategie delle stragi rosse e stragi nere, ma quella più intensa, il momento più intenso della strategia delle tensioni. Comunque sia, c'era della gente che voleva continuare, che ha voluto esprimere la propria senza aver paura. Boh, magari forse anche perché ci aveva un ideale dietro per poterlo fare, e aveva anche l'onestà intellettuale di prendersi in giro da soli, perché il male anche lui prendeva in giro tutti, nessuno escluso. E forse c'erano anche dei personaggi anche politici che potevano essere presi in giro in modo più facilmente dissacrante, mentre adesso la presa in giro sembra quasi ovvia, diciamo, per certi soggetti. Diciamo che certi soggetti superano la satira. Se infatti, secondo me, in questo momento supera la fantasia, nel senso degli autori. Anche questo provoca un po' una crisi fondamentalmente nel mondo della satira stessa, specialmente qui in Italia. Quindi forse sarebbe meglio che i politici smettessero di fare i buffoni e cominciassero a fare i seri, così la satira potrebbe rinascere. Ma adesso non ti preoccupare, che la Santanchè ci ripubblica Charlie Hebdo qua, e rinasce la satira in Italia, portata avanti da tutta la destra italiana. Bene, siamo in chiusura dopo queste patetiche cose sulla nostra classe dirigente. E siamo in chiusura, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi salutiamo con Et moi di Nim. Ciao a tutti. Ciao. Insupportable. Mon cœur est étranger, la musique le change toujours. Des larmes noires et blanches. Thank you. je t'aime, mon rêve obscur, comme entre